O voi che avete sete, venite alle acque. Anche chi non ha denaro, venga. Comperate e mangiate senza denaro e senza prezzo vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e vi affaticate per ciò che non vi sazia? Ascoltatemi e mangerete cose buone, vi diletterete di cibi succulenti. Tendete l'orecchio e venite a me, ascoltate, e la vostra anima vivrà. Stringerò con voi un patto eterno, le misericordie promesse a Davide. Ecco, lo costituii testimone tra i popoli, principe e comandante delle nazioni. Tu convocherai una nazione che non conoscevi, gente che non ti conosce accorrerà a te, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele, poiché ti ha glorificato. Ricercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Abbandoni l'empio la sua via e l'iniquo i suoi pensieri, ritorni al Signore, che avrà pietà di lui, e dal Dio nostro, perché è largo nel perdonare. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, e le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo si eleva sopra la terra, così sono elevate le mie vie sopra le vostre vie, ed i miei pensieri sopra i vostri pensieri. Infatti, come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano più, senza aver irrigato la terra, fecondata e fatta germogliare, in modo da fornire il seme al seminatore ed il pane a chi mangia, così sarà la parola che esce dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver realizzato quanto volevo e compiuto ciò per cui l'ho inviata. Sì, uscirete con gioia e sarete ricondotti in pace. Le montagne e le colline romperanno in giubilo davanti a voi. Tutti gli alberi della foresta batteranno le mani. Invece di spine cresceranno cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti. Sarà per il Signore una gloria, un segno perpetuo che non sarà cancellato.